Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E ritorniamo in diretta qui su Radio Stonata dopo aver aperto la puntata di questa sera preannunciando un po' gli ospiti che ci saranno questa sera, ma soprattutto che come al solito partiamo con i nostri amici di nonsoloturisti.it. Per me è bello ritrovarla perché con lei abbiamo fatto 3 puntate nel mese di dicembre, poi ci aveva preannunciato il suo viaggio ed è qui live a raccontarcelo subito, bello fresco fresco di giornata, possiamo dire, vero Elena? Sì, diciamo proprio fresco, sono tornata da 2 settimane, quindi ciao a tutti. Naturalmente lei, per chi non la conoscesse, è la nostra Elena Nebbiolo di nonsoloturisti.it, perché io sono partito subito in quarta, però lei è Elena. Elena, ne stavamo parlando fuori onda e poi subito ti ho interrotto, ti ho detto dobbiamo andare in diretta e ti ho tagliato. Però io vorrei partire proprio dalla mia domanda di partenza. Com'è stato questo viaggio, Elena? Allora, diciamo che chiunque mi abbia ascoltata in passato era abituata a sentire toni entusiastici e tante euforie legate ai miei viaggi. Questo viaggio è stato difficile. Ci sono stati dei problemi, delle disavventure abbastanza grosse, ma a 2 settimane dal mio rientro devo dire anche delle riflessioni importanti che mi hanno fatto crescere come viaggiatrice, spero. Ma, Elena, io sai cosa vorrei fare? Innanzitutto, poi entriamo proprio nella difficoltà del viaggio, ma io vorrei proprio partire dall'entusiasmo che comunque io ti ho seguito in quei giorni sui social, soprattutto su Facebook, la partenza, l'arrivo, perché ancora, cioè, non era del tutto chiaro quello che poi sarebbe successo, no? Cioè, nessuno si immaginava una cosa del genere, nemmeno tu esperta di Africa soprattutto, Elena. Sì, ed è anche per questo che poi io ho scritto un articolo molto diverso da quelli che sono solita scrivere, ma un articolo un po' di denuncia, proprio perché io che sono una viaggiatrice che si ritiene, insomma, una viaggiatrice esperta, come scrivo nell'articolo, io di Africa ne ho vista tanta, sono stata in 17 paesi e mi informo prima di partire, ammetto che avevo trovato poca documentazione o comunque poca documentazione che raccontasse poi quello che io ho trovato e ho visto. Per cui ho ritenuto poi giusto raccontarlo io, raccontare la mia esperienza, che in quanto tale conta uno. Questo è anche importante da dire, io non ho una verità assoluta sull'Etiopia, perché stiamo parlando di un viaggio in Etiopia, nella Valle dell'Omo. Io non posso dire che in 9 giorni ho capito tutto o la mia esperienza vale universalmente, ci sono tante esperienze diverse, ho avuto tanti confronti, ma sicuramente un problema c'è. E anche dal confronto che è seguito alla pubblicazione del mio articolo, che sicuro mi hanno scritto in centinaia, tra i commenti, tra la posta privata, perché comunque quello che mi è successo è abbastanza forte, e devo dire che tante altre persone hanno riscontrato il problema, secondo me, legato al turismo che esiste in questa zona. Elena, quindi partiamo dall'arrivo in Etiopia, com'è stato? Cioè, sì. Dai primi momenti, dai primi istanti che sei andata in giro per l'Etiopia, hai percepito forse qualcosa? Cioè, anche perché comunque tu sei un po' documentata, comunque la tua esperienza vale uno, come hai detto, però cioè, facciamo capire un po' ai nostri radioascoltatori, chi non ha letto l'articolo, comunque l'articolo trovate pubblicato, il link che vi riporta all'articolo sulla pagina di Radio Stonata e sulla pagina Facebook di Radio Stonata e sulla pagina Facebook Il Viaggio e poi naturalmente sui social di Non Solo Turisti. Allora, siamo arrivati. Allora, premetto che eravamo un gruppo di amici fantastico, forse il miglior gruppo con cui io abbia mai viaggiato, quindi c'è un po' anche questa dicotomia. Gruppo di viaggio bellissimo, viaggio un po' meno bello. Siamo arrivati con tantissimo entusiasmo tutti quanti, ma sin dall'inizio è stato un po' smorzato. Il primo giorno, io racconto nell'articolo, ci siamo fermati ad un mercato locale, io sono abbastanza abituata anche in Africa, nel momento in cui passi col pulmino e vedi qualche realtà che ti affascina, chiedere: possiamo fermare, possiamo visitare questo mercato? Sì, facciamolo. E sin dall'inizio ho capito che la nostra presenza non era così gradita, ma soprattutto quello che mi ha colpito tantissimo erano i bambini, i ragazzini che si interfacciavano con noi in modo, devo dire, abbastanza aggressivo, chiedendo soldi, soldi, soldi, in continuazione, in modo insistente. E siccome secondo me c'è assolutamente, anche questo è un altro tema che andrebbe approfondito, magari poi facciamo una puntata apposta, ma una sorta di vade mecum del buon viaggiatore, soprattutto in posti come l'Africa, ma comunque in qualunque paese povero, per me è molto importante eliminare il gesto del dare. Noi bianchi arriviamo lì, arriviamo, siamo ricchi, quindi diamo caramelle, diamo soldi. Questo è estremamente sbagliato, perché innanzitutto alimenta il mercato dell'accattonaggio, che non è assolutamente un buon insegnamento per loro, ma soprattutto perché il donare va fatto attraverso altri canali. Non dico che sia sbagliato donare, assolutamente è giusto aiutare chi è meno fortunato, ma sicuramente va fatto in un altro modo e non in un mercato dove mille bambini. Soprattutto è molto sbagliato dare dei soldi, perché questo li educa al fatto che elemosinando. Il problema è che, appunto, io parlavo di bambini, che sono uscita scioccata da quel mercato, perché sono uscita con delle ecchimosi alle braccia per dei pizzicotti molto forti, e ne sono uscita anche con un morso. Questo mi ha veramente, ho dovuto disinfettare per 3 giorni, quindi un morso proprio bendato da una bambina che all'ennesima volta che mi chiedeva i soldi io ho risposto di no e ha reagito così. Quindi devo dire, già il primo giorno è stato un po' un disincanto. Quindi Elena, hai percepito questa sensazione? Comunque soprattutto i bambini ti hanno sorpreso in questo viaggio, che chiedevano soldi, quindi forse un po' istruiti dalle persone, cioè più grandi, forse anche perché sono dei bambini, quindi a colpire la nostra parte, sai, sono dei bambini, ti chiedono dei soldi e quindi glieli dai. Forse anche questa è una cosa strana, no Elena? Sai, io non credo che siano istruiti dal più... Certo, allora, il fatto che siano i bambini colpisce molto di più, perché io negli altri posti africani, poi ripeto, ci sono stati, anzi, ci tengo a sottolineare, ci sono stati dei momenti anche bellissimi in questo viaggio dove ho ritrovato l'Africa che avevo trovato in altri posti, però io con i bambini mi sono sempre rapportata, sono sempre riuscita a giocare, anche qui in un posto sperduto si è creato un bel giro tondo, un bel gioco con i bambini, ma è stato un episodio rispetto a tanti altri invece differenti. Non credo che siano gli adulti a spronare, ma credo proprio che, per questo che il mio articolo è più una condanna al tipo di turismo e al turista in sé, perché siamo noi che li abbiamo abituati, probabilmente in maniera continuativa. Chiunque arrivi lì tira fuori dalle tasche caramelle, tira fuori dalle tasche soldi, e i bambini apprendono da quello che gli accade. Per cui se ha funzionato con uno, con due, con tre, perché non deve funzionare con tutti? Però se tu non mi dai i soldi o le caramelle mentre gli altri me li hanno dati, tu sei quello cattivo, quindi io ti pizzico, io ti mordo. Con questo, certo, non voglio togliere le colpe a loro, però consideriamo sempre che sono paesi che ci conoscono, che si interfacciano con noi, con il turista in queste occasioni qui. E quindi si abituano a quello che noi gli trasmettiamo. Ho capito. Sai che facciamo? Prendiamo un po' di fiato, ci ascoltiamo della pubblicità, poi un brano e poi ritorniamo ed entriamo nel vivo proprio del tuo articolo. Va bene. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E ritorniamo nuovamente in diretta qui su Radio Stonata. Questo è il viaggio, naturalmente il sabato sera della radio che più stona più suona. Siamo in compagnia della nostra Elena Nebbiolo, che, come ci ha già illustrato ampiamente nella prima parte con lei, ci ha descritto questo viaggio in Etiopia che è stato diverso da tutti gli altri viaggi, comunque dove ci sono state delle difficoltà che lei stessa ha percepito dai primi giorni, però il momento più drammatico mi sa che è stato l'escursione lungo questo fiume, no, Elena? Per raggiungere una tribù. Sì, sì, sì. Allora, è stata un'escursione, per fortuna il penultimo giorno di viaggio, un'escursione organizzata sul lago Chamo, quindi già più vicini ad Addis Abeba, già al ritorno dalla vista dell'Omo Valley, e abbiamo deciso, in questo lago c'erano degli ippopotami da vedere, e noi abbiamo chiesto se era possibile visitare anche un villaggio. L'escursione era organizzata dal nostro hotel, ci siamo separati in due barche e ci hanno detto che sì, era possibile visitare anche il villaggio. Premesso, non avvisandoci che invece poteva essere molto pericoloso, ovviamente no, questa cosa noi non la sapevamo. Abbiamo fatto questa quelli che hanno organizzato la vostra escursione sapevano che era pericolosa e non ve l'hanno detto, mi stai dicendo questo? Ce l'hanno detto dopo, quando noi all'albergo abbiamo presentato tutte le rimostranze, visto quello che c'era successo, loro ci hanno detto, sì, non è una zona sicura, non è una zona tranquilla, ma voi ce l'avete chiesto e noi vi abbiamo portati. Ah, ok, però, così funziona, insomma, va bene. Già. E niente, insomma, con queste due barche abbiamo visto gli ippopotami, poi abbiamo raggiunto questo villaggio, anche qui il solito clima, insomma, tutti che ci chiedevano dei soldi, per cui abbiamo fatto un giro veloce, poi abbiamo deciso di ritornare. Mentre tornavamo, succede che un ragazzino sfila dallo zaino di uno, noi eravamo in 12, sfila il marsupio con tutti i soldi, un passaporto, eccetera. Quindi i ragazzi più giovani del gruppo gli corrono dietro. Tutta questa vicenda dura circa un'ora, dove no, una parte di noi era lì sulla spiaggia davanti alle barche ad aspettare, e poi sono tornati i ragazzi, avevano contrattato un po' con gli anziani del villaggio la restituzione dei documenti e delle carte di credito, ovviamente senza soldi, ma a quel punto non era importante. Quindi, finita questa vicenda, ci imbarchiamo sulle nostre barche, ma purtroppo il tempo si era fatto brutto, stava anche diventando buio e il lago si era fatto molto mosso, per cui la persona che guidava la nostra barca, il nostro capitano, eravamo in sei su quella barca, non è riuscito a superare le onde, anzi ne ha prese due in pieno. Devo dire, anche i capitani non molto esperti, l'altra barca è riuscita sebbene a fatica, la nostra non è riuscita, abbiamo imbarcato un sacco di acqua. Nel frattempo ci raggiungono due ragazzi dalla riva a nuoto, non si è capito bene che intenzione avessero, uno di loro a un certo punto però si è arrampicato sulla barca, ha cercato di salire sulla barca facendoci imbarcare altra acqua ancora, per cui abbiamo dovuto, i ragazzi hanno dovuto buttarlo giù dalla barca. Fatto sta che oramai avevamo imbarcato troppa acqua, eravamo molto spaventati, completamente fradici, e abbiamo capito che l'unica soluzione, anche il capitano totalmente in tilt, era quella di tornare a riva. Nel momento in cui però, io lo dico nell'articolo, io mi sono girata verso la riva, ho visto una schiera veramente di persone con delle facce molto molto truci, e ho capito, visto che avevamo lasciato un clima non positivo, che il tornare indietro non sarebbe stata una cosa positiva, però in quel momento era anche l'unica soluzione che avevamo. Quindi, tornata la barca a riva, urla, insomma, si è veramente creata una situazione molto caotica. A un certo punto veniamo presi da alcuni uomini che ci fanno mettere in circolo, ci fanno mettere in gruppo stretti e si mettono intorno a noi armati di macete, bastoni, e capiamo che la folla che si era creata in realtà era molto aggressiva nei nostri confronti. Lì passiamo mezz'ora, 40 minuti senza riuscire a metterci in contatto con l'altra barca, in questa situazione, appunto, con questo cerchio di persone che sembrava ci stessero difendendo da persone che invece continuavano a urlare fuori da cercare di raggiungersi anche. Quindi questi uomini a un certo punto ci hanno detto, vi scortiamo in una capanna. Ci hanno scortato in questa capanna, dove abbiamo passato due ore di altissima tensione, nessuno proferiva parola, il nostro capitano cercava di mettersi in contatto con l'altro capitano. Abbiamo capito abbastanza in fretta com'era la situazione. Le persone che hanno preso le nostre difese in realtà richiedevano un riscatto per lasciarci. di fuori c'erano persone probabilmente più interessate ad aggredirci, a prenderci quello che avevamo lì in quel momento. Quindi anche hanno tentato di entrare dentro la capanna, sono stati prontamente mandati via. Alla fine di queste 2 ore finalmente noi siamo riusciti a metterci in contatto, a parlare con la nostra guida locale, con il nostro tour operator italiano che era con noi in viaggio. Infatti Beppe, la faccio anche questa parentesi, io non attribuisco nessunissima colpa al nostro tour operator al quale ci siamo affidati, perché hanno fatto veramente tutto il possibile e questo episodio è stato veramente una concatenazione di sfortune. Tutto il resto del viaggio era molto ben organizzato, che a me poi non si è piaciuto il rapporto nemmeno con le tribù, perché ho trovato tutto molto artefatto, è un altro discorso, però non trovo colpe nel nostro tour operator. Comunque alla fine il pulmino con il tour operator locale e la guida, con il tour operator locale e la guida italiana ci hanno raggiunti, per cui ci hanno scortati fuori dalla capanna e ci hanno fatto raggiungere il pulmino. Io anche lì, scortati completamente al buio da questi uomini sempre armati, come dicevo, tra l'altro tra la folla c'erano anche due persone incappucciate, insomma il clima era veramente molto molto era peso. Molto pesante, molto pesante. Sì, e però ne siamo usciti indenni e questa credo che sia la cosa più importante. Alla fine dei conti nessuno di noi si è fatto male, lo spavento è stato tanto, le 2 ore sono state molto lunghe perché non sapevamo bene che cosa ci sarebbe successo. Anche per il pulmino che è venuto a soccorrerci non è stato facile raggiungere la zona, ci hanno poi raccontato che si sono creati anche dei gruppi di persone che non li volevano far passare, insomma. Okay. E questa è stato molto, diciamo, anche travagliato il viaggio poi del ritorno. Mi dispiace farti rivivere, Elena, quei momenti, perché immagino tu ogni volta che le racconti li rivivi, quindi mi dispiace veramente tanto, però secondo me anche raccontandoli dalla tua viva voce si capisce quanto sia stata difficoltosa questa esperienza di viaggio, Elena. Sì, è stata sicuramente molto difficoltosa la prima volta che mi trovo in una situazione di pericolo reale, però ho scritto e quindi, guarda, dopo aver scritto l'articolo, raccontarlo diventa anche più semplice, è stato un po' catartico lo scrivere e l'ho scritto perché trovavo giusto raccontare, io ho sempre raccontato la verità dei miei viaggi. E siccome è molto difficile sui social, tu prima accennavi, dicevi ho visto i tuoi post, tutti all'inizio entusiasti, dopodiché io ho pubblicato solo più foto, chi mi conosce bene avrà visto didascalie molto scarne, perché già infatti, il viaggio sì. Non mi stava entusiasmando, però sì. Secondo me era importante raccontare questa storia per comunque far fare una riflessione in più a chi decide di partire per questo tipo di viaggio. Non dico di decidere in base alla mia esperienza, ma è un elemento in più per prendere una decisione. Come dicevi tu prima, la tua è una sola esperienza, ce ne possono essere altre naturalmente positive, però la tua si aggiunge anche a quelle positive. No, Elena. Esatto. Secondo me la mia deve far media, è chiaro che chiunque decida di una meta di viaggio deve prendere più fonti e più informazioni. Quindi credo che la mia sia una testimonianza che può far riflettere e però va assolutamente confrontata con altre esperienze. L'esperienza anche delle tribù secondo me è un problema molto grande. Ti dico, ho poi scoperto solo al ritorno che in realtà è stato fatto anche un documentario, per esempio, che si chiama Homo Circus, di denuncia del tipo di turismo che va a trovare queste tribù. Non c'è scambio, si paga per fare le foto, arrivano persone che armati di questi cannoni vogliono solo portare a casa lo scatto della vita, perché poi è vero, c'è un patrimonio etnografico in questa zona del mondo che è pazzesco. Però a che prezzo? E soprattutto come si sta diffondendo questa forma turistica, a mio parere, e sottolineo a mio parere, sbagliata, proprio perché è un po' come vivere uno zoo umano, perdonatemi l'espressione forte, e non credo che sia corretto. Ma noi ti conosciamo, Elena, per la tua sincerità anche nel raccontare, nello scrivere i tuoi articoli, e quindi penso che questo tuo racconto sia altrettanto veritiero come tutti quelli positivi, e quindi viverle queste esperienze negative che forse ti hanno un po' segnato, però io penso che in questo viaggio hai detto anche tu, hai fatto un bel giro tondo con dei bambini in un villaggio, quindi c'è anche del positivo alla fine, no? Sì, sono stati dei momenti molto belli, appunto, cioè, io ho scoperto l'attrazione delle bimbe etiopi per questi miei capelli lunghi e lisci, che è vero che li hanno tirati spesso, però in un'altra occasione si sono messi anche, come dicevo, improvvisate hair stylist, mi hanno riempito la testa di treccine nel giro di 10 minuti, mi è uscita un'acconciatura decisamente improbabile ma molto divertente. Poi hai imparato anche da questo fatto dei tuoi capelli lisci e lunghi che erano attratti, e quindi li hai nascosti in un bellissimo cappello. Sì, diciamo che per visitare alcuni posti ho iniziato a legarmeli perché erano veramente troppo alla portata. Poi, come dico anche nell'articolo, io sono piccolina, sono magra, sono molto più facile bersaglio rispetto ad altri, per cui eri alla portata, però eri alla portata, quindi dai, perché piccolina, sì, ero alla portata, ero alla portata. Però no, mi porto a casa anche delle assolutamente delle emozioni positive, il gruppo di viaggio col quale tra l'altro ripartiremo tutti insieme, perché nell'articolo qualcuno mi ha detto: ah, dopo un'esperienza così non viaggerai più. Assolutamente no, perché un'esperienza negativa non riesce assolutamente a pareggiare il milione di positive, ma anzi, anche questa esperienza mi ha fatta crescere, mi sta facendo crescere, perché mi sta facendo riflettere su tanti temi sui quali non avevo ancora riflettuto, quindi cresco come viaggiatrice, ma smettere di viaggiare non è assolutamente tra le mie intenzioni. Elena, immagino che siamo arrivati in fondo al tuo racconto, e questa sera ti ho dedicato anche un po' di più tempo proprio perché dovevamo raccontare bene questa tua esperienza, e ci risentiamo prestissimo, vero? Sì, ci risentiamo presto, te lo prometto, magari affronteremo ancora un po' meglio il tema del turismo qui, e poi parleremo dei miei prossimi viaggi. Infatti, secondo me lo dobbiamo affrontare meglio, come hai detto prima, cioè, non mi ricordo se l'hai detto in onda o fuori onda, perché questa sera sono molto provato anch'io dal tuo racconto, però dobbiamo affrontare questo discorso di questo modo di approcciarci, appunto, dando dei soldi o comunque che è sbagliato. Quindi gli esseri umani diventano dei, tipo, ti sembrano di vivere dentro uno zoo dove tu paghi per vederli, ed è sbagliatissimo. Grazie Elena. Grazie a te. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it